Ecco, ma chi dice o pensa che comunque l'Italia, essendo troppo grande per fallire, dovrà comunque essere salvata? Cioè chi dice, attenzione, noi non siamo la Grecia, se cadiamo noi cade anche la Francia, un minuto dopo, che è piena di obbligazioni italiane, e anche le banche tedesche non scherzano, per cui in definitiva, mentre la Grecia poteva essere fatta fallire, un po' come Lehman, che pure era grande, noi siamo più del calibro di Merrill Lynch, Morgan Stanley, cioè siamo troppo grandi per fallire. Beh, bisogna stare molto attenti a fare discorsi del genere, si scherza veramente col fuoco, a parte il fatto che dopo il fallimento di Lehman sappiamo cosa è successo. La Grecia è un problema a sé, ci sono dei progetti per gestire il suo debito su livelli più ragionevoli, pensare che nessuno ci farà fallire perché siamo troppo grandi come italiani è un gioco veramente pericoloso. Siamo noi i primi a dover prendere le misure necessarie per uscire da questa crisi. Però in totale onestà, con un po' di cinismo forse, è vero che noi siamo troppo grandi per fallire? Cioè quando Sarkozy dice se non avessimo salvato l'Italia era la fine dell'euro, sottintende che poi toccava la Francia? Ma sottintende, io la leggerei diversamente, sottintende il fatto che se un paese grande dell'Europa, qualunque esso sia, fallisce probabilmente l'intero progetto dell'euro. E questa è la domanda che ci si deve porre, siamo disposti a far fallire l'euro o no? Però questo significa anche che se si risponde non lo vogliamo far fallire, bisogna pagare i costi per ottenere i benefici, abbiamo già aspettato troppo. Quindi lei dice non è vero che siamo troppo grandi per fallire, che potrebbe... Insomma, no, ripeto... questa è una discussione filosofica, c'è qualcuno che dice se sei troppo grande per fallire sei troppo grande, naturalmente questo si dice di banche più grosse, sì, che certo, di paesi, però insomma, non si, ripeto, non scherziamo col fuoco, qui va presa azione decisa a livello di paesi, non solo l'Italia ma anche altri, va presa azione decisa a livello europeo. Quindi bisogna, se non è deciso, vuol dire cifre chiare, meccanismi chiari, e questo ancora non c'è. Senta, abbiamo fatto male, cioè, secondo lei, a rinunciare alla riforma delle pensioni, visti i risparmi che porta? Beh, la riforma delle pensioni in generale è una di quelle riforme che ha una notevole quantità di benefici, perché produce molti risparmi, aumenta la popolazione attiva, quindi la crescita, e fa più spazio ai giovani. Certo, è difficile per chi ha dei diritti acquisiti rivederli, però qui si sta parlando del futuro di un paese. Io penso soprattutto ai giovani, che sono quelli che stanno veramente subendo i costi più alti di questa crisi, anche se ancora non sono visibili.